Stamattina sono stato dal medico. Ha detto che mi voleva vedere a digiuno. Non mi fa fatica alzarmi presto. Tanto mi sveglio tutte le mattine alle 5 spaccate io. C'ho un orologio meccanico in corpo. Io sono andato in pensione, ma lo corpo mio continua, come se fosse affaticato. Non stacca mai. Tossisca. Respiri. Trattenga il fiato. Mattina, giugno 1940, in piazza, io, Giovanni, Aurelio, Fernando, Benito e Peppino, tutti senza un filo di barba, garzolette corte, ginocchia zozze. 13 anni ancora da finire. Se uno adesso ci vede a stare lì per terra sotto lo sole, a tirar sassi stamattina di giugno che non passa mai, paremo pure più piccoli. Secchi come le canne. Questo è tempo di dittatura e guerra, non si mangia niente. Cibo razionato per tutti, pure per chi deve crescere. Giovanni, che è pure più secco di me, mi si avvicina da dietro, mi dà uno schiaffo. Ma che, si scemo? No, è per passatempo. Sono guardato a quell'altro e gli sono fatto, beh, sapete che vi dico allora, che io per passatempo domani vado a fatica, sei a fatica, e do sullo cimitero, alla Cecchetti. Zio mio è cecchettaro, mi ha detto che cerca persone, che adesso c'è tanto lavoro, e io devo combinare che co. Ma quello è forte, mica come te, che quando tira vento te devi mettere i sassi in saccoccia per non volare. Ma che, non li vedi? Con la tuta blè tutta intera. Secondo te pia li frighi con le garzolette corte come nuale là dentro. È l'ora di pausa colazione. I cecchettari sta tutti in piazza a magnà sotto lo sole. Io quella tuta blè proprio la voglio. L'invidio quell'omini che va a fatica la Cecchetti. Oh, sapete che noia c'è. Io domani ce vago. Se volete venire con me, bene, se no arrivederci e buonasera, La mattina dopo, ore 6, apertura dei cancelli, tutti in fila lì davanti. Io, Giovanni, Aurelio, Fernando, Benito e pure Peppino. Dai, Peppino, tu sei troppo frigo, che figura ci fai fa? Con sti 13 anni di belle speranze. Lì, in mezzo all'operaio e all'operaie cammucchi bocca in fabbrica. Oh, ma operate quelli veri, con la tuta blè tutta intera, dentro la Cecchetti. Mi pare di sognare. Le donne ci guardano come a di pure i cocchi. Ma che è pieno di donne qui? State zitto, Peppi. Una, la più vecchia di tutte, con un fazzoletto sulla testa, mi riconosce e mi fa: Nini, ma che fai qua? Io mi sento una vampata sulla faccia, più mi sforzo e non diventa roscio, più mi vampo. Così mi vergogno pure di più. Mo questa pensa che sono un frigo. Che se troppo frigo per fare la guerra, figurate a fatica dentro la Cecchetti. E la Cecchetti è la più mondiale di tutte le guerre. Intanto, ste tutte blè, boccate tutte. Io, Giovanni, Aurelio, Fernando, Benito, oppure Peppino, siamo ormai sti lì, a sedere fuori davanti ai cancelli. Peppino, che è proprio lo più frigo di tutti, si è messo a contarle una per una ste tutte. 21, 22, 20... ma quante ne dè? 3.000, Peppi! Allora viene fuori lo capo portineria, che è uno zoppo, no? Ci si avvicina, ci fa: oh ragazzi, ma che state a contare? Ma che siete, scemi? Che volete? Fatica. Ma quant'anni siete? Mica è una scuola questa. Io dico che è un'altra parte. No, io rimango qui. Io devo faticare. Allora, sto capo portineria fa finta di dirgli verso l'ingresso, no? Poco una botta, si gira, sciò! Rompi i coglioni che non siete altro. Non ce l'avete una madre? No. Dopo 2 ore stiamo ancora lì a sedere per terra sotto lo sole, con una fame. A mezzogiorno arriva una macchina nera, veloce, tutta impolverata. Cala l'autista. È un anzianotto robusto, nero come la macchina, ma per essere un autista mi pare vestito un po' male, con la camicia bianca tutta acciaccata senza manco la cravatta. C'ha la voce forte da uomo. Che state a fare qui davanti? Lo sapete che non ci potete stare? Che volete? Ma volemo solo faticare. Ah sì, volete faticare. E quant'anni ci avete? Ma qui tutti 16, qualcuno pure 17. Eh sì, e io sono nonneto. Da quando è che state qua? Stamattina alle 6. Ah, ma allora volete proprio lavorare. Allora st'autista va verso la portineria, no? Si mette a parlare con uno, poi se faccia ci fa: la vedete quella porta? Aspettate là, ma non ve muovete, eh? Ermonda sull'automobile. E piano piano io, Giovanni, Aurelio, Fernando, Benito e Peppino passemo sto cancello. Prima la sbarra e poi lo portò. Essera. la Cecchetti. Lo zoppo di prima, lo zoppo di prima! Che facete qua? Che volete? E dai, fatica, ci abbiamo lo permesso dell'autista. De chi? Dell'uomo nero, quello che guida la macchina. Ma chi? Cecchetti, lo padrò. Ebbene sì, ci abbiamo lo permesso dei Cecchetti Adriano. Adriano, come me. Solo che io mi chiamo Campini Adriano, detto Nini. Primo dei quattro figli, nati da genitori contadini, cresciuti in campagna, in un casale grosso, sulla strada per Macerata. È su quella strada che se io cado tutto giorno, tanto non passava mai una macchina. Però io sono riuscito lo stesso a farmi investire, orda, dalla Topolino dello Fattore Nostro. Una botta che non ci sono capito più niente, mi sono svegliato all'ospedale che non ci stavo, dentro lo gesso da dolore. Che c'ha sto figlio mio, dottore, gli fa babbo? C'è che gli è stato fatto male il gesso. La gamba è tutta storta, te viene zoppo sto figlio se non lo sistemiamo. Sai che facciamo adesso, Nini? No, non lo so, dottore, che facciamo? Te la sistemo io, un attimo, ma come? Mi via la gamba, così da sveglio me la rispezza, porco dingimoro. Solo svenuto. Quanti pianto, Nini? Voglio vedere a voi. Certo, Nini, pure tu, mi fa sto medico. In tutta la strada per Macerata, ci sta un'automobile sola e tu sei riuscito lo stesso a farti investire. Sei proprio un Nini, a pezzo d'un deficiente, medico deficiente che non si altro, io voglio dire. Guarda che mi sei fatto più male tu della Topolino, eh. E invece lì, sopra lo letto, mezzo svenuto, io la faccio solo a dire, oh, ve la facete finita di chiamarmi Nini? Io mi chiamo Adriano, ci tengo a sto nome mio, Adriano, non Nini. Che a scuola pure tutti con sto Nini, Nini, Nini. Fino a 12 anni sono stato a scuola, per modo di dire. Che a 9 ci ha faticato in campagna lo pomeriggio. Suonava la campanella, mi facevo un'ora di bicicletta e correvo da babbo sui campi. Pigliavo la paga di mezza donna a mezza giornata per faticare quanto un uomo. Poi andrò in bicicletta, la sera mi metto a fare i compiti. Una fetta di pa, latte e a letto. Una sera su due senza latte. Però io aspettavo la domenica, che la domenica ci veniva a trovare zio nostro Cecchettaro. Mi parlava della Cecchetti, io lo stavo a sentire, mi raccontava della fabbrica e diceva che era così grossa che per girarla tutta ci voleva una bicicletta. Ma grossa quanto, zì? Non te lo puoi neanche immaginare. Che te posso dire? Più grossa di una montagna. Una notte però succede che le montagne trema forte. È la prima volta che sento lo terremoto. Io mi ficco sotto lo letto, ma non è che mi fa paura che trema l'immobile o l'ambalario, no, è che sento di là a mamma che piagne e prega, babbo che gli corre di rete e bestemmia. Io lì sotto lo letto pensavo, ma che piagnetta fa? Che domenica viene zio nostro e con le semma sua da Cecchettaro qua sistema tutto. La domenica dopo però zio nostro non è venuto a trovarci. Non è venuto manco la domenica dopo ancora, ma manco quell'altra. Sai quando sono rivisto a zio io? Quando sono entrato pure io dentro la Cecchetti. Primo giorno che entro in fabbrica è di sabato. Lo capo reparto non m'ho fatto, c'è più di 20 anni, mi fa: come ti chiami? Campini Adriano. Ah, saresti tu, Nini? Pure qua dentro. E quant'anni c'hai? 13, fra 6 mesi. Allora ce n'hai 12, vieni con me, va. Mi porta, non devo fatica io, ma pure questo del zoppo come quello della portineria. Ma che è, tutti sciancati quelli che fate qua dentro? Allora vago bene pure io, penso che dopo lo secondo gesso proprio dritto dritto ancora non ci cammino. Questo si ferma e fa: Nini, che me stai a guardare la gamba? No, perché? Ma che vi è successo la gamba? L'incidente di quando stavo in fonderia 5 anni fa. A te? A Topolino un medico deficiente. Ma come facete a faticare con sta gamba sciancata? Chi non c'ha gamba deve avere testa, non lo sai? Io prima dopo lo somaro, che non è una bestia, ma una mazza da 17 chili. Muio gli scambi, zombavo su e giù dai vagoni, dopo no. Dopo sono cominciato a toprare la testa. Fallo pure tu, capito? E certo che so capito. Che pose c'è il penso mi fa sto capo reparto? È stato un bene l'incidente mia. Mi è venuto addosso un pezzo di carro. Mi è sposto un lopochetto per non rimanere schiacciato. Mi sono spostato pure da sta zozza guerra. Babbo mio ha fatto la prima di guerra. E mica è venuto. E ha fatto la targa. Meglio una gamba corta di una targa quadrata, che dici? E beh, dico di sì. Passiamo in mezzo operai veloci che scalla, picchia lo ferro, spigne, casse enormi sotto una pressa gigantesca. Questa è la seconda più grossa d'Europa, la prima sta su in Germania. Quello che vedi davanti a te lo reparto carri numero 100, poi ci sta lo 300 pittori, lo 400 carpenteria, lo 600 meccanica, lo 800 servizi vari e lo 900 carrozze. E lo 500, zitto Nini, lo reparto 500 è lo segreto di sta fabbrica, perché ogni fabbrica c'è un segreto, e lo segreto è la Cecchetti, sto reparto che non c'è, lo reparto fantasma. Guarda Nini, che se fai cazzate qua dentro, se non ti apri la testa, la fine è tua. È lo 700, l'inferno della fonderia. Questo che vedi qua è lo 200 falegnameria, monta sedili e finestrini di treni. Lo senti l'odore? È vernice. Adesso non ci sta tanta puzza, perché da quando è cominciata sta zozza guerra, qua dentro è cambiata la produzione. Mo te porto dove devi fatica tu. Lo sai che facciamo qui? Spediamo i bossoli su al nord. Lassù altri disgraziati ci aggiunge la polvere da sparo, ci fa i proiettili pronti per essere sparati per la gloria dell'Italia fascista. Tu Nini li conti sti bossoli, li metti dentro le scatole, ci scrivi la matricola, metti le scatole sopra lo Van Gogh, capito? Vai, Campina Adriano, vai! Oh! Dopra la testa! A me invece mi tocca doprare le braccia, per 3 anni. Io le dopro le braccia. Ma la guerra è guerra, oh, qui bombarda. Come fai a faticare? La mattina via, tutti a casa tu. La guerra è uno spettacolo che non si dimentica, eh. L'incoscienza mia non c'aveva paura. Veniva i bombardieri, tutti scappa dentro rifugi. Io ormai ho là fuori a guardare insieme agli amici mia. Giovanni, Aurelio, Fernando, Benito, pure Peppino. A contemplare a bocca aperta lo spettacolo mondiale. C'era distrutta completamente la fabbrica. Quello che non bombardava gli inglesi e gli americani se lo pigliavano i tedeschi. Però giugno 44 siamo liberi, a noi ci libera i polacchi. Froi, liberi, ma liberi degli do. Che costa liberazione, tutti i partigiani che si erano nascosti sulle montagne erano venuti tutti a casa. Che dopo la liberazione erano diventati tutti partigiani, non si trovava più una camicia nera. Pensa che miracolo, erano diventate tutte bianche queste camicie, con la cravatta intonata. Forse era questo quello che volia di lo capo reparto mia quando diceva dopo la testa. La testa. Questo lo diceva pure babbo mia, che è la testa che fabbrica l'idea. E l'idea è importante per un uomo. Babbo mia era socialista. Mamma no. Mamma era credente, cattolica, fervente, con in testa sempre lo peccato. E babbo per ribadire il concetto che l'uomo che comanda la sera quando rientravano gli vestemmia tutti i preti, i santi dello calendario. Era uno specialista, babbo mia. Ogni sera un santo diverso. Tanto per far capire a tutti che comandava isso. Mamma glielo faceva credere. Se faceva lo segno della croce. Ma a parte sta storia dello calendario, non so sentito mai una discussione tra di loro, una cagnara. Loro sì che stati due compagni di viaggio. Babbo e mamma. Nel dialetto nostro la parola compagno c'è un'usanza speciale. Vuole di uguaglianza, ma di un altro tipo. Per esempio, tu dici che una scarpa è compagna di un'altra, anche se una è destra e una è sinistra. Però è compagna perché devi insieme. In fabbrica, invece, siamo imparati a usare la parola compagno per indicare posizioni politiche. Per questo la sezione di partito, un architetto, un operaio, si chiamava compagni fra di loro, anche se erano una scarpa o una ciabatta. Così finiva che ti trovai solo scarpe di destra o scarpe di sinistra. Però sai, se te metti due sinistre, cammini male. Sarà per questo, pensavo io, dentro la Cecchetti quasi tutti zoppi. Farà fatica a camminare con queste scarpe scompagnate. Ma io, che fino allo giorno prima gli avevo scarso, mo già avevo le scarpe mie, la tuta mia blè tutta intera, che mi pareva un abito da sera, chi se la cacciava mai? Manco la domenica. È cambiato tutto da un giorno all'altro. Quelli assunti dentro la Cecchetti siamo diventati lo meglio partito per le ragazze da sposare. Vabbè, io ero troppo frigo per pensare alle donne. Ma adesso che sei diventato operaio Cecchetti, me fa zio mia, te ce devo portare sui terremotati e devi fare come tutti quei ladri. Che gli devo fare, zio, lo terremoto che devo fare? Fa che vieni con me e poi ti spiego. Lo terremoto c'era stato quella notte dei 4 anni prima, no? Il 36. tra Caldarola e Camerino, sulle montagne nostre. Una specie di guerra pure quella. Le terre più belle di tutto l'Appennino, adesso tutto rotto era, le case, i paesi sfollati. Tanti operai della Cecchetti vi ha deciso che ognuno come putia dava una marti lassù. Chi faceva lo muratore la domenica, chi portava le coperte, chi che cosa da magnà. E adesso che ero diventato operaio, toccava pure a me. Entro in fabbrica di sabato, già la prima domenica faccio lo volontario sui terremotati, con zio mia. Vai sulla montagna a faticare. Come facevi a dirgli di no? Era passati 4 anni, ma ancora tutto rotto era. Una tristezza, pure famiglie. Pure sta montagna, dice zio, gli da io come un mucchio di terra. Dopo sto terremoto venne la guerra, quella vera. Io mi sono fatto uomo. Un giorno, no? 80 anni dopo, ci sono portato a Rosina mia a fargli vedere che roba era lo terremoto. Beh, non ci crederai? Non ci stava più niente. È terremotato. Tutto nuovo, bello, ricostruito, verde. Rosina mia mi guarda e mi fa: Adrià, ma tu ti inventi sempre le cose? Che te sogni? Dove è stato tutto questo terremoto? Mi pigli in giro, Adrià? Era passati 20 anni e come se non era successo niente. Tutto scancellato. Lassù. E qua giù? Quant'anni ci è voluto qua giù per scancellare tutto? No, perché qui in fabbrica è finito uguale, eh? Solo che ci siamo rimasti noi altri sotto le macerie. Ha tirato su palazzi, banche, supermercati. Adesso ti pare che sta fabbrica non c'è stata mai. Ma come? Un secolo per costruirla. Sognarla. Faticacce, falla crescere, difendela. Poi vendi, compri e vendi con una botta di ruspa, spacchi tutto. Non è stata salvata manco una ciminiera, un nome, niente. Ma a chi faceva vergogna sta storia nostra? Vacci adesso davanti a dove sono faticato io. Guardati intorno. Marmo bianco, nomi dei santi. Via Santa Rita, via Santa Chiara, via San Luigi Versiglia. Ma chi lo conosce a questo? Via San Callisto Caravario. Caravario manco sullo calendario di papà mia stava. Me voli dagli santi, me sta bene. Dammi Piazza del Cristo Lavoratore, Viale San Giuseppe Operaio, no, abbronzatura Ligd, che è venuto, i tedeschi e la Cecchetti, abbronzatura Ligd, palazzi di marmo bianco, un campo santo mi pare, dei lapidi giganti, vaccio adesso davanti alla Cecchetti, che io non ci passo più, manco lo giorno dei morti, per l'isolo cimitero che sta lì davanti, che la testa mia, gli pare che ci ha sotterrato prima dello tempo, là sotto la Cecchetti. Dentro la Cecchetti ci sono trovato l'amico mio, più amico di tutti. Lo compagno mio. Augusto. Aldo. Bello, forte, manco 20 anni. Era nato per l'Olimpiadi, Augusto. La mattina presto, prima di affaticare, si allenava sullo lungomare. Era ora di cena e dai che corria su e giù per la spiaggia. Era il 58. Augusto si allenava duro. Voleva combattere per l'Olimpiadi. Quelle di Roma del 60. Lo sogno suo. Augusto è forte, eh? Quando c'è ria picchia duro, prima ripresa K.O., seconda ripresa K.O., alla terza ripresa non ci faceva ria, diceva faccio così perché chi mena per primo mena l'uo. L'unicordo che non sono menato subito, sono perso, allora cerco di menare prima io, è la tattica mia. Aveva cominciato presto a tirare la box, Augusto. Poi morto lo padre suo, gli era toccata la fabbrica. Allenamenti, lavoro, lavoro, allenamenti. Augusto è forte, c'ha sto fisico spavaldo. È sicuro di quello che vuole dalla vita, me lo dice sempre. Fatico un altro pochetto, fino all'Olimpiadi. Poi stacco, vaffanculo lo lavoro, cioè no, faccio lo pugile professionista, vaffanculo la Cecchetti. Alla sega circolare, il lavoro è semplice. C'è solo la portare avanti e indietro una tavola di legno fino a che non è tutta tagliata. Quante se ne vuole segare un giorno? Pure 1000. È un lavoro da niente. C'è solo a stare attenti perché Augusto le mani gli serve sane e forte. Spostetemi da qui per piacere, fino all'Olimpiadi vi dico. Dovevi stare attento a questo, perché ogni tavola di legno è diversa da un'altra. Può succedere che un nodo decide di resistere. Allora non basta la seconda, la terza, la quinta ripresa per farlo cedere. La tavola di legno si inceppa e rimane ferma lì. Allora Augusto spinge con più forza. La tavola riparte e si ferma un'altra volta. Alla seconda spinta la tavola si spacca tutta de botto, si spezza in due più una scheggia che ti si ficca dentro la carne come una lama. Augusto si amputa il dito e il tendine, quasi. Adesso con sto dito insanguinato, Augusto, gli mangeria la coratella lo capo reparto sua. Disgraziato, tu mi sei rovinato, ti avevo chiesto fino all'Olimpiadi, almeno fino all'Olimpiadi. Ma un infortunio da niente, per uno che fatica qua dentro, capirai. Stai 2 settimane in muto e poi cominci. L'ho fatto che in quelle 2 settimane ci sta l'eliminatoria per l'Olimpiadi, capisci? È il 59. Quella scheggia seguita a un urlo è l'ultimo match da Augusto Pugile. Augù, e vorrà dire che te le vedrà la televisione sto Olimpiadi di Roma. Augusto era proprio fissato con Roma, non si poteva fare niente, me lo diceva sempre. Mi faceva, ma tu lo sai che a Roma per strada può l'incontrare Palmiro Togliatti in persona? L'aveva visto in fotografia a Togliatti, con Nil Degliotti, bella e giovane com'era. Insomma, un po' faceva vergogna stamanti, ma ancora sposati. Però che grande storia d'amore faceva Augusto. Altro che coppia la dama bianca. Senti qua, Togliatti Iotti, non ti pare una canzone? Insomma, mi fa Augusto, tu ri a Roma, no? Stai a guardare lo Colosseo così, ah! E mentre che stai a bocca aperta ti passa davanti Togliatti con la Iotti che ti vede con suo forno spalancato, gli vorresti di chissà che. Segu, fa che li vedo. Poi vedrai se non gli dico li fatti della fabbrica nostra. Che manco l'acqua per l'asse ci sta. E gli dico pure che per politica sta licenziando mezza Cecchetti, che ci vuole mannare tutti quanti all'estero. E invece Togliatti te passa davanti, tu manco gliela fai a salutarlo. E no, Agu, almeno delle docce glielo devo dire. Porca puttana. Adrià, ma dimmi la verità. Ma tu a Roma ci sei stato per davvero? Sì, Agu, te lo so detto, 2 volte. Con i preti e con i compagni. E dimmi la verità, Adrià, come essa Roma? Bella, bella tanto. E che sole. A Roma ci sta sempre un sole che certe orde pure de notte. Pure de notte. State calmo, Agu. Ci sono state 2 orde a Roma. Quelle 2 orde ci stava lo sole pure de notte. Che te devo fare? Che la prima orda ci sono stato per l'anno santo, no? Che avevo fatto la raccolta dei bollini delle messe di San Marone. Che a San Marone ogni orda che gli avevi la messa ti dava un bollino. Ogni bollino ti scalava un tot. Più messe sentì, meno pagavi. Io sono riuscito a non pagare niente. A me manco quello mi è riuscito, mi fa Augusto. Che quando c'era sciopero, io gli avevo che a pallone lo gambetto dello prete. Che lo prete ti prestava lo pallone, che era una merce rara. E io stavo lì che io cappallolo, prete mi vede ancora con la tuta da Cecchetti, mi fa, Augusto, che fai qua, non sei al lavoro? No, ho fatto sciopero, prete. Allora tu a Roma non ci vieni? Come a Roma non ci vengo? Perché non ci vengo? Perché hai fatto sciopero, ti scomunico. E se ti scomunico non puoi venire a messa. Se non vieni a messa non pigli i pollini per venire a Roma. Augù, e tu gli devi rispondere, io allora a Roma ci vago con i sindacati, che i pollini manco li vuole, anzi, mi dà una bandiera tutta noa, con sopra scritta Cecchetti, a perdero, mi piglia su un corpo qui. Io sono fatto così, sai, nel 54. Sciopero generale. Partemo con la corriera per Roma, con sta bandiera mia tutta nuova, con sopra scritta Cecchetti. Come terremo su una piazza larga, no, Agu? Ma larga tanto, eh? Te vedo una squadra di uomini tutti in fila, giacca e cravatta, che ci viene incontro. Io ne fermo uno e dico, se ci sta una cresima, un matrimonio. Quello mi risponde che tutti operai, Ansaldo Genova. E che ci andate in giacca e cravatta a lavorare all'Ansaldo Genova? No, ma ci abbiamo le docce. La mattina ci mettiamo la tuta, la sera ci laviamo, ci rivestiamo normali, ci abbiamo pure la mensa. Poi questo mi vede la bandiera mia tutta nuova, con sopra scritta Cecchetti, mi fa, e voi compagno? Ma che compagno, un secchio d'acqua per ogni reparto, se no chienti, con fiume nostro, compagno. Compagno caporeparto! Compagno caporeparto! Compagno caporeparto! Augusto, per far incazzare lo caporeparto, lo chiamava compagno. Quello si incazzava e diceva: io non so compagno tua, compagno caporeparto. Però c'aveva una paura sto caporeparto, che Augusto gli diceva sempre: io a te la seconda ripresa non te ci faccio riare, ti ammazzo prima. Dopo la storia delle 8 lire, boh, faceva le scintille Augusto. Era successo che Augusto fa ritirare la busta paga, proprio adesso ci sta l'insegna abbronzatura Licht. Augusto cammina con suo passo suo da peso Welter, no? Contento, perché è stato ripreso a lavorare. L'aveva lasciata a casa perché c'era poco lavoro, gli aveva detto lo caporeparto. No, l'aveva lasciata a casa perché era troppo comunista, ma lo motivo gli importava poco, l'aveva lasciata a casa, punto e basta. E tutto il resto, Augusto, non è che gli importava più tanto, dopo la storia dell'Olimpiadi di Roma. Comunque, quando l'aveva ripreso a fatica, l'aveva messo in reparto verniceria, a dai colori ai carrozze dei treni, fatica pesante, tutto lo giorno. È per la prima settimana, Augusto, poi ti spostiamo. Passa 15 giorni, Augusto sta ancora lì a verniciare i carrozze. Allora vado allo caporeparto, a chiedere com'è sto fatto. Au, te stai a comporta bene, lo pennello lo sai dopra, lo fisico ce l'hai, alla fine fatica qui da un'altra parte. Che differenza te fa? Ma se mi lasciate qui mi dovete aumentare la paga, come quest'altri che sta in verniciatura, che è un lavoro che ti fa gamba a poco. C'hai ragione, Agù, ma una fabbrica come la Cecchetti, con i momenti difficili che ha passato, è come una ruota dentata che tanto tempo che sta ferma, no? Quando parte, i primi giri è lenti, qua c'è scatti, poi così così, poi dopo quando parte va, va. Ci aveva capito granché Augusto. Però chissà perché sto paragone con la meccanica l'aveva tranquillizzato. E vedrai che ci avrai pure l'aumento. Ma scordati questa storia dell'omenato, dello pugilato. Vedrai che cambierai meglio. Dammi retta, tu. Stasera porta a ballare la moglie tua. E poi Dio provvede. E certo che Dio provvede. Che quando Augusto va a ritirare la busta paga, vede che la qualifica verniciatore c'è. Fammi un po' vedere se ci sta pure l'aumento. 8 lire al mese. 8 lire, manco mezza fetta di mortadella. Sta orda lo ammazzo la prima ripresa, però. Non reagì alle provocazioni del padrone, Augusto. Allora Augusto va dall'ingegnere e gli dice che ste 8 lire se le può pure tenere, che lui non c'ha bisogno dell'elemosina come gli storpi. Le dà cessa a qualcun altro, ste 8 lire. Non possiamo, le 8 lire sono le tue. Allora le dà cete in beneficenza, tutti i mesi, alla provvida. E lo ragioniere là dentro, tutti i mesi che ha fatto nostro signore, deve versare 8 lire alla provvida. E chi era là dentro lo principe della provvida? Ciro, quello con lo flash. Ciro ci lasciava lo stipendio suo dentro la provvida, con la scusa dello padre e di Roma, che a Roma Ciro ci doveva lì, non per l'Olimpiadi, ma per la storia della pensione dello padre, che aveva fatto la guerra d'Africa. Era morto giovane, ma siccome non si trovava più lo certificato, alla moglie sua non gli riconosceva più la pensione. Era come se la guerra non l'aveva fatta. Allora Ciro diceva che se gli toccava gli a Roma rifare sto certificato, se doveva fare un vestito, però con i pantaloni lunghi. Allora Ciro che fa? Va dalla provvida, lo spaccio aziendale all'interno della Cecchetti. Una provvidenza. Che se eri dipendente della Cecchetti e la provvida, puti comprare a prezzo di costo tutto quello che ti pareva. O magnà, i vestiti, le scarpe, la bicicletta, pure le foto da Medeo Nazari per la moglie tua volendo. E Ciro di fronte a sto pendio Dio, cioè se lo spegne tutto, lo stipendio, a credito, perché la provvida comprai, comprai, ti facisca la risordia e la busta paga. Fatica, fatica, la busta paga rimaneva dentro la provvida. Che per pagasse sto vestito che si era fatto per ieri a Roma, ieri tirava 500 lire al mese, ci ha messo 2 anni per pagarselo, vestito dei pantaloni lunghi. Che la madre dice a figlio mio, che ce va a fare a fatica? E tutto quello che pì non devasta né per lo sapone né per la colazione. Ma Ciro è fatto così. È un frigo quando entra in fabbrica, un ragazzino. Deve pensare alla famiglia. Lo padre suo è morto da 2 settimane. Il giorno del funerale il parroco parla con Adriano Cecchetti. E racconta di sta famiglia sfortunata con 4 frighi piccoli. Cecchetti guarda sto frigo. A Ciro, e questo sarà lo più grande. E voglia di lavorare ce l'ha. E per forza, Adrià. E allora mandatemelo, no? Che qualcosa ci inventiamo pure stavolta. Ma tu lo sai com'è cominciata sta storia dell'imperatore Adriano? Quello vero, mica io. Adriano Cecchetti lo padrò, che io pensavo fosse l'autista, l'operaio padrone. Adriano Cecchetti sa che fa? Cala giù da Cittanuarda, gli sta stretta, ria qua si piglia tutto, tanto non ci stava niente, che ci stava la ferrovia, lo mare e due case più là. Questo ria per primo, dice mio, perché tuo? Perché sono riato per primo, me lo compro, i sordi chi te li dà? Me li presta la banca. Non ti fidate la banca. Questo si rimbocca le maniche, senza manco le asse, la camicia la domenica e si mette a faticare. Lo fontaniere Cecchetti Adriano. Allora, c'era sta leggenda in fabbrica, no? Che Adriano Cecchetti si era comprato un terreno che era tutta una curva. Ma una curva grossa, eh? Pari alla binna gigante di un pesce enorme. Sull'onda scivolava i treni. Sotto lo pesce ci stava lui, riparatore di ingranaggi. Con le camicie da lavoro, le mani in tasca. Che ci sta bene Adriano Cecchetti dentro lo zinale azzurro. Pare un contadino, ma anche un po' dottore specialista di quelli che cura le fontane di Cittanuarda per non lasciare i paesani senza acqua. E già adesso non gli basta tre capannoni. Ogni tanto Adriano Cecchetti, no, si ferma a guardare con le mani in tasca qua, verso la stazione. Gli piace guardare l'onda dei treni. Gli piace riparare le macchine agricole, sentì lo strofinamento delle cinghie sulle ruote. E un giorno, mentre sta lì che guarda verso la stazione, sente un rumore di un treno che si avvicina lento. Fa un rumoraccio. Lo macchinista lontano gli fa segno. Te, oh, vieni un po' qua. E dice a me. No, tu sorella, muoviti un po', va. Adriano Cecchetti cammina piano, si avvicina lento. Muovete un po', lo dice a Soreta. Comunque state attento che de sto passo deragli. Perché? Cosa c'è? Come cosa c'è? Non ti sei accorto che c'è una ruota sciancata? Oh, gli basta mezz'ora Adriano Cecchetti. Dopo mezz'ora la ruota è riparata come se fosse Noa. Quando sto treno parte, lo macchinista, lo finestriglie fa. Sai cosa ti dico invece? Ce ne vuole di più da operare come te per smuovere sti ferrovie. Lo capostazione guarda Cecchetti. Adriano, ma che t'ha scambiato per un operaio di Ferrovie dello Stato? Mi sa di sì. Adriano, ma perché non te ci metti per te a riparare i treni? Tu te fai un binario tutto tuo. Te porti i treni dentro la fabbrica e te li curi per bene, no? Tu ridi, ridi. Ma questo se lo fa per te un binario. Se mette a riparare i vagoni e li fa nuovi. 10 al mese. 20 al mese. 30 al mese. Che ormai manco a Bologna. Ma manco a Bari, ma manco a Torino. Entra la carrozza moribonda, scortata dai barellieri in tutablè. Entra lenta. Deve essere lavata dello peso e dello sporco di tutti i chilometri e di tutti i viaggi. Va tolto tutto lo legno. Rimane lo scheletro dei ferri. E da qui si riparte. Nuovi corpetti d'amianto. Nuove tappezzerie. Nuovi colori. Vernice. Ultimo tocco, la stanza di vapore. Eccoci qua, la carrozza è pronta, tutta arluccicante. 10 al mese, sciopero. 20 al mese, sciopero. 3, sciopero. Ti sono detto sciopero, fermete, no? Lo primo sciopero non si scorda mai. Vuoi che ti dico pure la data? 14 luglio 1948. È l'ora di pausa pranzo, c'è un'aria strana in giro, ma pare che non ci usa niente. E chiedelo lì Capoccia, che loro lo sa, hai voglia se lo sa. Devi capire che è successo, no? Perché che cosa è successo di sicuro? Tutto sto via vai dei celerini qua dentro, dei carabinieri, ma che siete aspettati? Aspetta le 2:30. E poi tutti cominciano a urlare, sciopero generale, hanno ammazzato Togliatti! Come Togliatti? Anzi, gli hanno sparato, è vivo, ma sta male! Anzi, gli hanno sparato, è vivo, non si è fatto niente. L'unica cosa che si sa è che gli hanno sparato. Eh no, questa è grossa, eh. Ci mettiamo tutti in sciopero, ma proprio tutti. Pure Risorci che stava a rosicare la segatura là dentro si ferma. La fabbrica è bloccata, bloccate le strade della città, la statale 16, la ferrovia, tutta Civitanova in piazza. Mai visto uno sciopero del genere. Dall'altre parti d'Italia arrivava notizie di cose che non ci si credeva. A Genova c'era dei morti, a Livorno pure. Anche a Roma. No, da noi no. Da noi niente violenza. Dura 3 giorni lo sciopero nostro. Tutta la città è con noi e noi con la città. Ma gli scioperi degli anni 50 quelli più duri, che qui adesso ci giochiamo la pelle nostra, che vuole ripulire sta fabbrica, che dice un cattivo esempio per tutta la regione. Lo Capoccia dice che tutto sto sindacato qua dentro gli fa l'effetto di troppo sugo sugli maccheroni, lo stomaca. Ci vedemo ria in piazza pure Tambroni, lo ministro marchigiano, che ci fa il piombo dei nostri proiettili, ci sarà sempre per voi della Cecchetti. Ma come, dico io, è così che parla un ministro della Repubblica? Allora qui si deve vedere chi è più duro. E noi occupiamo la fabbrica. Padrone mio, ti voglio arricchire. Un bel giorno, no? Padrone mio, durante sto sciopero, vago alla fermata della tranvia a Piero Pranzo. Ce lo mando io da Cittanuarda la madre d'Augusto, insieme a un po' di coperte, con la tranvia. Però non viaggia da sole ste coperte. Ci sta una ragazzetta che è in amore. Per chi è ste coperte, signori? E che te frega a te? Oh, chi t'ha imparato l'educazione? Guarda che se continui questo tono ti dago due schiaffi, sa. Tu proici e poi vediamo quanti te ne dago io da qui all'eternità. A me sta cosa all'eternità mi fa ammazzare di ride. Ma come parla questa? Come l'attrice del cinematografo, da qui all'eternità. Sta ragazzetta si mette a ridere pure essa, però diventa tutta roscia. E come ti chiameresti? Rosa. Sono la figlia di Ginetto che sta al reparto carpenteria. Le coperte per l'operaio che sta a fare l'occupazione per lo freddo di stanotte. Beh, se me lo dici subito, gli riportavo io le coperte a babbo tuo, no? Ci sto pure io là dentro a fare l'occupazione con isso. Ma se te lo dici io subito, adesso non stavamo qui a chiacchierare io e te. Nini. Pure tu. E tu come lo sai sto nome mio? A parte che io mi chiamo Adriano, no Nini. Perché? Che me fai se te ci chiamo? Nini. Ma senti a questo. Insomma, finì a luglio del 57, io sta Rosina me la sono sposata. Con 400.000 lire che c'avevo, me ci sono fatto pranzo, viaggio di nozze, ci sono comprato pure gli immobili. Me ci è avanzato pure che co. Quando mi sposo la fabbrica chiude per le ferie d'agosto. Lo postino porta le lettere di licenziamento. Quando rientriamo al lavoro scopriamo che è cambiata la proprietà. I nuovi padroni dice a metà degli operai arrivederci e grazie. Ci cambia pure nome, adesso ci chiama SGI, ma siamo sempre a Cecchetti. Noi altri cecchettari, i meglio operai di tutto il centro Italia, dice Augusto. E non so capito mai se lo diceva per piarsi in giro o se ci credeva per davvero. Che poi Augusto, quando ci credi a una cosa, te lo faceva capire, eh? O con le buone o con le cattive, che al posto della macia viene una mazza. Come quando faceva partire i scioperi. C'aveva una tecnica tutta sua. Battia con le nocche da pugile sui respingenti dei vagoni, no? Praticamente un gong. Tu capì? Sciopero. Non ti potevi sbagliare. Come l'orda della vaporiera. La vaporiera serve per l'impianto, il riscaldamento delle carrozze, no? Sta proprio al centro del capannone. Con la caldaia che butta tutto lo fumo là dentro sopra la testa dell'operai, che così non respira più. Quante volte Augusto gli aveva detto lo capo reparto, guarda deficiente, che basta mette un camì che butta lo fumo di fuori. Lo deficiente gli rispondeva che ci pensava isso, però i mesi passava, la caldaia stava ancora senza camì. Una mattina Augusto gli viene una botta di tosce che a momenti si affoga. Più tosce più si incazza, più si incazza più tosce, gong, tutti sciopero. Giorno dopo, camino pronto, visto, che ci volia. Solo che adesso lo fumo va tutto intorno alla fabbrica, sulle case nostre, che le donne tutte affacciate alla finestra, mo le fa sciopero loro, che non vuole più stene la biancheria, che le mutane, i garzitti, le canottiere gli diventa color carbonella. Rosì, tu non ti devi incazzare con me, è stato l'ingegnere che l'ha voluto in sta ciminiera, mica un altro operai. Gli ingegneri, i capi reparto, i capi turno, i capi squadra. Capo squadra io. No. No, grazie. Carriera io non l'ho fatta mai. La carriera mia finì ogni giorno con la sirena delle 16:45. Io decido come usarla la vita mia, non la fabbrica. Questa è libertà per me. è che prima di tutto devi chiarire un rapporto tuo con i soldi. E certo che è necessario, mica sono scemo. Però devi stabilire subito quanti te ne serve. Se non sai quanti ne vuoi, non sai quando è che te devi fermare, no? Fatica all'infinito. Devi fissare una cifra. Poi non la devi cambiare ogni botta di vita, se no non stai mai contento. Tette pure largo, ma fissa una cifra. Poi un'orda raggiunta, stacchi. Se non c'è sto senso del limite, non c'è lo senso della vita tua. Sarai sempre un poraccio. Come quando devi fare un incontro di vox. Se sei un dilettante, fai 3 riprese. Se sei un professionista, ne fai 8. Se sei Cassius Clay, ne fai 15. Ma mica ne puoi fare 40. È lo stesso su una carrozza di treno. Per coibentarla ce devi mettere 500 chili d'amianto. Non uno di più, non uno di meno. 500 chili d'amianto. Su una carrozza. Per forza dobbiamo chiudere. L'amianto la Cecchetti c'è entrato nel 56, come i compagni russi in Ungheria. L'effetto più o meno è stato quello, eh. Ci ha messo gli stessi anni a distruggere tutto. Le ferrovie lo usano per la coibentazione delle carrozze. Costa poco, ti difende dal freddo e dal caldo, ti isola pure dai rumori. Meglio di così, se muore. In fabbrica ci stava sacchi pieni d'amianto dappertutto. L'operaio ci dormia sopra nella pausa pranzo. Soffici come cuscini, ah, una pennichella di 5 minuti dopo magnato, mica di più, me la farrai, fa. Ci rivestivamo tutti i vagoni con l'amianto. Ma prima le carrozze dovevi togliere quello vecchio, rovinato da migliaia e migliaia di chilometri di scossoni. Ma sai quanta polvere che faceva? Polvere fina che cadeva a terra, lenta, soffice come la neve. Ma come la neve? Pure d'estate. A Porto Civitanova. Ci toccava salire sulle tettoie dello reparto a scrostarla sta bella neve. Che se no dagli oggi e dagli domate crollava lo tetto addosso. Che piano piano sta amianto si è fatto sempre più pesante. Eppure scomodo. Ma adesso è facile dirlo. Prima no, per niente. Perché sai, la nostra è una fabbrica vera, eh? Una fabbrica che l'olio bruciato te lo trovi pure sull'angolo delle tettoie. Una fabbrica che l'odore di vernice te stordisce fino alla nausea. Una fabbrica che lo calore di ferro fuso te coce pure l'osse dentro. Ma secondo te, in una fabbrica come la nostra, che differenza fa un po' di polvere che pare neve? Te lo dico io, nessuna. Almeno fino a quando un giorno uno si sveglia e ti dice, oh, guarda che da oggi si cambia modo di fatica. Perché? Nuove misure di sicurezza. Pigli la mascherina e non dormi più su quei sacchi. Sicurezza? Perché? Che pericolo c'è? De che? Me lo vuoi spiegare? No, piglia la tuta, i guanti e la maschera. È lì che ho cominciato a non capire. E no, perché secondo te come ci si sente? Essere stati tutto lo tempo là dentro, sentite parlare di sicurezza e non capisce niente. Eh? Allora mo ti faccio un esempio. Metti che ti ha fatto fatica per 3 anni, che ne so, dentro un'acqua speciale. Poi si scopre che quell'acqua fa male. Allora non ti ci fa fatica più in quell'acqua. Ma tu cominci a domandarti, perché non ti fa fatica più in quell'acqua? Vorresti capire. Ma nessuno ti dice niente di preciso, si suppone solo che quell'acqua sia dannosa. Poi comincia pure a visitarti, come una cavia. Ti tieni sotto osservazione, sempre perché forse l'acqua di prima. Poi comincia a vedere qualche amico tuo, o collega di fabbrica che si sente male, oppure muore. Ma no quelli che casca alle impalcature, quell'altri, quelli che muore di niente. Allora pensi all'acqua di prima. Mo tocca pure a me. Allora cerca di farti stare tranquillo. Ti dice sì, ma vedrai. Poi come fa dalla colpa alla fabbrica? Fumi, bevi, lo smog, non è più l'aria una volta. Chissà che ti ha fatto male. Comunque hai la solidarietà di tutto il consiglio d'amministrazione. Ma quale consiglio? Che da quando è morto Cecchetti stavo tutto un vendere e comprare, vendere e comprare. Siamo cambiato padroni uno su due. Che Cecchetti sta fabbrica. Non l'avria chiusa manco da morto. Imperatore, certo, di quelli veri. patrò ma imperatore. E potì pure sputare solo muso, lo potì pure odiare, ma isso la fabbrica sua l'amava. A quest'altri dopo, che gli frega? Vendere e comprare, vendere soprattutto. La terra, che sta terra è una miniera d'oro, capisci? Una miniera. Te dice, ma di che cosa dovrai pure morire, no? Allora se muore l'imperatore, non vuoi morire tu? Tutto muore. Muore lui, muore tu, muore la fabbrica. Adriano Cecchetti muore presto, dopo la guerra. La fabbrica no. La fabbrica muore piano. 40 anni ci mette. Io me li sono fatti tutti lì dentro. Te dice, ti abbiamo dato da lavorare quando c'avevi 13 anni, ti ricordi? Ti sei fatto 49 anni sicuri. Adesso stai in pensione, c'hai pure l'invalidità per l'amianto. La reversibilità per la moglie tua, che vuoi di più? Che voglio di più? Un giorno di serenità, per esempio. Quanto costa la serenità mia? Quanti punti di invalidità vale? Ma che me frega adesso l'invalidità? Che me frega a me? Se è vero o no che ci sta un reparto nascosto dentro la Cecchetti. Lo 500. Quello che ogni suo ha visto mai, che da frigo mi faceva paura solo a sentirlo nominare. Che me frega a me se l'amianto l'ha sotterrato lì, sotto la Cecchetti, come sta scritto sullo libretto che ci ha dato la CGL. Che te saccio io se è vero o no? Questi affari. Che faccio a fare io? Può essere che ce lo siamo sognato. Che me frega a me se il padrone lo sapia che era nocivo. Che me frega della mascherina. Dammi quella di Purginella, con la tuta bianca. D'amianto però la voglio. Che cucita con fuoco a tutti, me salvo solo io. Mi ci viene pure da ridere. Ma tu pensa. Lo sai che ci ha detto quando ci ha licenziato tutti quanti? Tutti quanti. Dei 3.000 che eravamo quando sei entrato, ne eravamo rimasti meno di 300. 276 per essere precisi, ma lo sai, la manodopera non serve più. Poi la crisi degli anni 50, quella degli anni 60, 70, 80, 90, tutta una crisi, che te pare? Però oggi dobbiamo fare festa, una festa grossa. Abbiamo vinto un appalto gigante delle ferrovie, 200.000 ore di riparazione carrozze. Invece... la fabbrica non ha i requisiti richiesti per la decoibentazione dell'amianto. Cioè, scusi? Cioè, l'amianto vi ha ammazzato due volte, non avete capito? Che volete, ingegnere? Voglio dire che prima va fatto ammalare, poi visto che non c'avevamo i soldi per rifare gli impianti nuovi, la fabbrica non era a norma per eliminare sto veleno, ci hanno revocato l'appalto. Basta, tutto finito, a casa. E quindi... quindi tu, Campini Adriano, che ti sei fatto 49 anni sicuri dentro la Cecchetti, adesso vai in pensione e gli altri pure, dai. Non rompete i coglioni, che una soluzione la troviamo. Tra mobilità, invalidità per l'amianto, cassa integrazione, dai. Sempre meglio che un calcio in culo, no, Campini Adriano? Che dici? Che devo dire? 73 giorni di sciopero, di fila, giorno e notte, tu così mi mandi in pensione. Ma questa è la vita mia. Ma come? Passi l'esistenza tua in gabbia. Poi quando non c'è più niente di economico da offrire, libera. Sciò, fuori. Adesso potete fare quello che vi pare. Adesso. Ma la gallina vecchia, se la liberi per l'aia sotto lo sole, manco sa più camminare. Se inciampa pure con i fili d'erba, con i sassi. E che ci facevano là, fuori della fabbrica? No, non ho mai capito. Non voglio fare l'elogio della fabbrica. La fabbrica è un inferno. Se non fosse per quei quattro soldi che ti dà metà mese, che ci andresti lì dentro? Lo varcheresti lo cancello di ferro tutti i mesi, tutti i giorni, per 50 anni, alle 6 della mattina? Non lo dimanco per scherzo. Invece finisce che lì dentro, in un mondo a parte, ci passi l'esistenza tua. Alla fine sei stato più tempo là dentro che ad ogni altro posto. Oh, 50 anni. I saluti la mattina. Le cazzate dentro gli spogliatoi. Le discussioni a mensa. Lo rumore del fuoco che brucia. I binari. l'odore di vernice, l'odore della fabbrica. Tossisca. Respiri, trattenga il fiato. Stamattina sono stato dallo medico. Ha detto che mi voleva vedere a digiuno. Non mi fa fatica alzarmi presto. Tanto mi sveglio tutte le mattine alle 5 spaccate. C'è un orologio meccanico in corpo. Io sono andato in pensione, ma lo corpo mio continua, come se fosse affaticato. Non stacca mai. In bella compagnia, però. Pure sti fiocchi che mi hanno nevicato dentro i polmoni, mica stacca mai. Non smette mai di faticare. Anche la televisione stamattina ha parlato di sti fiocchi di neve. Ha detto che noi altri in Italia l'abbiamo usato più di tutti l'amianto, perché abbiamo la più grande miniera d'Europa nel Monferrato, su in Piemonte. Qual è l'unica miniera più grossa d'Europa che abbiamo noi? Oro, diamanti, petrolio? No, quella che ti ammazza. Piano piano però. Dice, l'abbiamo messo dappertutto, soffitti, tetti, capannoni, treni, navi. Tanto non costava niente. A te non costava niente. Dice, ci aspettiamo 25.000 morti nei prossimi 20 anni. 25.000 morti. Dice la latenza. Sto male, c'è una latenza lunga, lunghissima. Pure 40 anni. Beh, io mi sono avvantaggiato. È dal 56 che mi avvantaggio. Dice, sì, 25.000 morti certi, ma non dovete preoccuparvi. Se non l'avete respirato non c'è problema, il problema è solo per chi lo ha respirato. Cioè, non moriranno le persone normali, moriranno solo gli operai, potete stare tranquilli. No, le persone normali, solo gli operai, me lo potete dire prima, mi si è fatto via un gorbo. E se sei uno di quegli operai? Tossisca. Respiri. Trattenga il fiato. Dopo che sono stato dallo medico, sono riato sulla riva dello mare, insieme a Augusto, l'amico mio, lo compagno mio. Sì, che c'eravamo stati tutti e due dallo medico, sai, in due fa meno paura. Poi tutti e due insieme siamo riati sulla riva dello mare. Però, te lo puoi immaginare mai, che di tutto quello che è mania della fabbrica ce lo teniamo in un'acqua dentro. Che bello effetto respirare davanti a sto mare, a tutta st'acqua che passa, non si ferma mai. Respira, Adrià, rosina tua, che dice? Niente, dice, fa finta di niente. Stamattina mi ha detto, con tutto quello che siamo passati insieme, vuole che non passa pure questa. Sai, si dice che De Pezzo Prosso, che si chiama Adriano, non ci stava solo Cecchetti. No, c'era uno pure più importante di esso, un imperatore vero. Me l'ha detto Fimo. Dice che de mestiere facia l'imperatore romano. Praticamente, figlio mio, gli sono fatto, me stai a dire che quello che conta meno di tutti so io. Sì, Adriano, ma che differenza te fa? Mo che siamo riati davanti a sto mare, a st'acqua che passa non si ferma mai, tu stai ancora a pensare alle differenze. La differenza è che io a figlio me lo so fatto studiare. E mo che è diventato uomo mi ha regalato un libro a me, di sti imperatore. Ma io mi sono fermato alla prima pagina, capirai? Troppo difficile per me sono fatto. Comincia pure il latino come la messa. Come dai che fa? Animula, vagula, blandula. Mia povera, piccola, fragile anima, ospite di sto corpo che ti sta abbandonando, stai per lasciarmi. Augù, provo a respirarlo proprio bene sto mare. Con tutta st'acqua che passa non si ferma mai. Respira, Gu. Po' dopo, piano piano però, Girete verso terra. La vedi la ferrovia adesso? La curva grossa a forma di pesce, la vedi? Ecco, la vedi adesso la fabbrica nostra, gu. Con tutto lo mare di tutte blè. 50.000, gu. Un oceano. Prova a contarli adesso, come facciamo da frighi davanti ai cancelli. Dai, gu. Te la senti di passare un'altra orda a sto cancello? Occhi aperti, però. Testa arda. Adrià. Manco se me paghi. Lo sai invece dove vago adesso io, Adrià? A Roma, in treno, prima classe. Perché non ci vieni pure tu, Adrià? Siamo compagni di una vita, non ci siamo fatti mai un viaggio insieme io e te. E dai, Adrià, affresca uno. Ma allora tu sei proprio fissato con questa capitale d'Italia. Te so detto che ci sono stato, con i compagni e con i preti. Au. Mo te devo dire una cosa che tu manco ci credi. Ma lo sai che manco a Roma sta più l'operai? No, neagù. Ma manco a Milano. Manco a Bagnoli. Manco a Terni. Te lo dico io, agù, come chita. L'operai non c'è stati mai. Non è esistiti mai. Ce li siamo sognati noi. Ma che vuol dire, Adrià? Che manco noi siamo esistiti? No, ne avù, manco noi siamo esistiti. Praticamente, Adrià, tu mi vorresti dire che io me lo sono inventato, me lo sono sognato, di fatica per 50 anni dentro la fabbrica, di mettermi tutti i giorni che ha fatto Cristo la tuta al ciablè. Te lo sei sognato, avù. D'arzame tutte le mattine, estate, inverno, alle 5 della mattina. Te lo sei sognato, avù. Me lo so sognato. Oh, Nini. Me te vai a fanculo. Non mi chiamar Ninì pure tu, eh? È solo treno, agù. Datte una mossa, agù, che sennò pure questo perdi di treno. Manco sta orda c'è a Roma, agù. Agù. Agù. Augusto. Ti saluto.